Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche Marco Mengoni, protagonista del Festival Sanremo, chi secondo noi doveva assolutamente vincere, ma si sa che non sempre. Noi speaker radiofonici non siamo propriamente molto considerati, vale comunque il televoto che si dice essere democratico. Allora 21 e 25 minuti primi in questo istante, siete sempre con Blu Radio Sera, Blu Radio Veneto, io sono Flavio Bilato. E come vi anticipavo in principio di trasmissione, abbiamo un collegamento telefonico, anzi due. Il primo è alquanto importante, con Vittorio Descalzi della leggenda New Trolls. Buonasera Vittorio. Buonasera a tutti. Buonasera, allora come va Vittorio? Mi anticipavi che eri al ristorante con D'Adamo e Belleno. Belleno, certo, perché abbiamo finito le prove, allora ci rilassiamo. Stiamo mangiando a tavola. Sì, e diciamo anche per cosa servono le prove, Vittorio, perché non sono prove a caso, ma sono prove per un concerto che avverrà tra qualche giorno in quel di Vicenza. Il 26 per la precisione. Il 26 di febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale di Vicenza, quindi ci sarà la leggenda New Trolls che vede il ritorno di protagonisti di quel 1971 che ricordiamo con Concerto Grosso, ma ancor prima con altri bei brani. Quindi ricordiamo il rientro di Descalzi, Di Palo, Belleno e D'Adamo. Esatto, praticamente John Lennon, Paul McCartney. Sì, però non diciamo troppo. Ecco, in realtà voi comunque siete tutti quanti, tutti e quattro vivi e vegeti, ecco, in questo caso. Facciamo gli scongiuri. Assolutamente sì, mi raccomando Vittorio. Ecco, diamo il benvenuto anche a un mio collega che non ha potuto essere presente in radio questa sera perché febbricitante, però da casa aveva assolutamente il piacere di parlare con te Vittorio. Diamo il benvenuto anche a Maurizio Calzavara. Buonasera, buonasera Vittorio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, Maurizio, tu avevi preparato delle belle domandine. Sono molto emozionato a parlare con Vittorio. Si parlava del Festival di Sanremo. Dobbiamo ricordare che nel 69 i New Trolls parteciparono al Festival di Sanremo, al primo, uno con Io che te, era un singolo strepitoso, Vittorio. Sì, penso che sia caduta la linea, sai. Allora, niente, cosa dici? Intanto, Maurizio, possiamo mettere un qualcosa che... Mettiamo su il pezzo iniziale del Concerto Grosso, la famosa... cioè pezzo che ha dato inizio al progressive italiano, bisogna sottolinearlo questo. Benissimo, allora mentre cerchiamo di ripristinare il collegamento con Vittorio Descalzi, ci ascoltiamo un pezzo proprio di Concerto Grosso, questo è il numero uno del 1971. We'll be right back. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua a parlare di New Trolls, a parlare di concerto grosso, a ricordare il 1971, e siamo in collegamento telefonico con Vittorio Descalzi, grande protagonista di questa leggenda New Trolls, e con Maurizio Calzavara, nostro critico musicale di Rock Wave. Benvenuti a tutti e due. Grazie Sam. Pronto. Grazie. Vittorio, ciao. Eccoci, ciao. Abbiamo il nostro avatar invece di noi, no? Abbiamo l'avatar. Esatto. No, parlava prima, Flavio parlava del Festival di Sanremo. Nel 69 avete partecipato con un pezzo strepitoso, Io Creo Te. Ah, bellissima canzone. Bellissima, veramente bellissima. Un po', non è una canzone sanremese, assolutamente. Beh, insomma, una via di mezzo, forse vista attraverso la distanza potrebbe no, ma io devo dirti che invece allora, quando l'abbiamo fatta, pensavamo fosse troppo melodica. Ah, ho capito. In realtà comunque Sanremo, confermi anche tu Vittorio, è un'ottima vetrina per partire. Beh, accidenti, dipende da quello che hai da proporre, è tutto lì, perché la vetrina c'è, poi state a proporre una cosa decente, oppure magari tu la proponi e non te lo permettono. Ecco, quello è importante. E succede molte volte con molti gruppi, non solamente nel passato, anche nelle recenti edizioni del Festival di Sanremo, che ci sono stati molti gruppi che diciamo si sono sciolti oppure sono stati in piena contestazione con la propria casa discografica proprio per una scelta Non condivisa di pezzi. Ma sai, Sanremo è un'arma a doppio taglio, devi stare proprio attento, perché lì sei all'attenzione di tutti, ma hai 3 minuti e mezzo, 4 per dare tutto quello che puoi fare. Esattamente, dare il massimo. Sono band che hanno bisogno di molto di più. Dobbiamo sottolineare una cosa, Vittorio: siete stati i primi in assoluto a inventare il concept album, questo dobbiamo dirlo. Senza Orario, Senza Bandiera, a 40 anni, e sono passati appena 40 anni da poco tempo, questo album sta volendo. È vero, hai ragione, però devi sapere che fino ad allora gli album si facevano con le raccolte dei successi, no? Sì. Nessuno faceva un tema unico che racchiudeva tutte le canzoni di un album, insomma, diciamo che noi siamo stati i primi in Italia. Poco prima di noi c'erano i Beatles con Sgt. Pepper. È verissimo. Poi qualcuno ha parlato anche di Moody Blues, non so se sei d'accordo. Beh, assolutamente sì. Esattamente. Quindi un concept album grazie alle liriche di Fabrizio De André. Eh beh, certo, che peraltro aveva preso spunto da un altro mio grande amico, che è un poeta genovese che si chiama Riccardo Mannerini, no? Esattamente. Che era uno che scriveva le poesie viaggiando, lui era uno che lavorava sulle navi e in ogni posto dove andava scriveva poesie, poi le raccoglieva. E Fabrizio, diciamo che è stato un po' un suo... come posso dire, hanno vissuto una parte della vita insieme a Riccardo Mannerini. È stato il suo maestro, diciamo, di pensiero anarchico. Che poi, tra le altre cose, Vittorio, ho visto un po' anche la scaletta, quella che contraddistingue anche il concerto di venerdì prossimo, appunto, al Teatro Comunale di Vicenza, e è presente ancora Fabrizio De André, anche con qualche omaggio che voi fate nei vostri concerti. Ma ti devo dire una cosa, che questo che hai letto, lì abbiamo fatto anche Creusa de Mar. Oh, bellissimo, sì. Noi l'abbiamo fatta perché eravamo a Genova e siamo indecisi se parla anche a Vicenza. Io direi di sì, non si capisce molto, però voglio dire, è una cosa assolutamente piacevole, Creusa de Mar. Poi... Tu pensa quando vai a sentire Bruce Springsteen che la metà delle cose che dice non le capisci. Ah beh, senz'altro. No. Senz'altro, però poi adesso il Gabibbo alla genovese c'è un po'... ha instradato anche noi, voglio dire, nel gergo zenese, come si dice. Però lì è una cadenza, capito? Sì. Che una lingua. No, certo. Il genovese è proprio una lingua, veramente abbastanza complessa e difficile. Direi che forse si avvicina di più al portoghese, no? Si permetta questo. Dopo che mi hai detto questo, io adesso mi sono alzato dal tavolo dove di fronte avevo D'Adamo e Belleno. Sì. Adesso vado a dirgli che forse ci conviene fare Cresa de Mar. Dai. Certo, certamente. Certamente. Te lo vado a dire, perché avevano appena detto di no. No, no, perché Cresa di Manda va bene per Genova, non possiamo farla a Treviso. Anche ma la musica di Didier è universale, Vittorio, c'è poco da fare, quindi... Vedremo, adesso vado a fare una litigata. Ecco, me l'hanno appena detto. Allora venerdì sera scopriremo cosa... Vedremo. Va bene, comunque non vogliamo insistere, non vogliamo mettere zizzania prima del concerto. Vittorio, siete stati i primi che avete fatto il concept ad, siete stati i primi a sdoganare il Progressive con concerto grosso numero uno, con Baccano. Accidenti. Beh, secondo me quella è una delle cose migliori che abbiamo fatto noi in tutti questi 40 anni. È una cosa che ci portiamo dietro ancora molto viva, e ti do la notizia, ma forse la ormai è gira già. Ci siamo rincontrati con Luis Bacalov, premio Oscar per la musica del Postino, certo, e autore insieme a noi del concerto grosso numero 1 e numero 2. Certo. E abbiamo deciso, davanti a un bel mare genovese, dopo un po' di bottiglie di vino, di fare il nuovo concerto grosso a settembre. Bellissimo, una cosa strapitosa. Ricordiamo che il concerto grosso numero uno ha venduto all'epoca, vendete circa 800.000 copie, una cosa inusitata. Sì, poi è arrivato a un milione. Ecco, un milione, vedi, un milione. E poi è una cosa fondamentale, è una facciata di improvvisazione. Questa la faremo in concerto. La farete, è bellissimo. L'inizio del secondo tempo del concerto è nella sala vuota. Ah, e invece speriamo che sia nella sala piena, in realtà. Ah, beh, indubbiamente. Sarebbe difficile lo sgombero a metà concerto. Vabbè. Li mandiamo tutti via, non male. Certo. Vabbè, allora direi, per riavvocare quei bei tempi, noi abbiamo a disposizione anche il... Prima abbiamo ascoltato il concerto grosso numero uno con la prima traccia, quella anche più conosciuta. E adesso l'allegro, giustissimo. L'allegro. Ogni movimento ha un suo titolo speciale. Certo, adesso Maurizio ne ha scelto un'altra da ascoltare insieme, proprio all'interno invece del concerto grosso numero 2. Posso dire, Vittorio, secondo te il concerto grosso numero 2 era leggermente più pop, tra virgolette, cosa dici? Il 2? Sì, il 2. Sì, anche perché la seconda facciata, perché una volta mi... che avevano due facciate, oggi non ce l'hanno più, no. Hanno una sola, nell'altra ci puoi specchiare, no? È vero. E sì, la facciata B del concerto grosso 2 c'erano un po' di canzoni pop anche, è vero, hai ragione. Ma un pop fatto bene, un pop che si è allargato troppo come popular, intendo questo. Certo. Sì, è vero. Sono cose che faremo anche nel concerto fra del 26. D'altra cosa, vedo L'Eroi Soleil, è proprio bellissimo. L'Eroi Soleil, bellissimo. No, non può mancare. Chiaramente no. Quando Nico suonava la chitarra con i denti o di niente, se si metteva di fianco alla schiena, no? Sono cose straordinarie. In questo caso stiamo parlando anche di un'altra canzone dove mi sembra di aver visto il Nico Di Palo suonare con i denti, mi sembrava... Shadow. È un dixiano, sempre stato un dixiano Nico, in ogni caso. Certo. Sì, vabbè, quindi si è portato anche Cher, penso che è impredicato, non sappiamo se lo faremo o no. Però io gli spingo per farlo, perché è uno dei miei pezzi preferiti. Chiaro. Anche perché il concerto dura un 5-6 ore, mi sembra di capire, Vittorio, per cui c'è tempo di ascoltare tutto. Tu ci scherzi, ma è il problema che abbiamo. Ecco. Cioè, ogni volta che uno dice facciamo anche quello, e qualcuno dice allora cosa togliamo? Ecco. Perché siamo già lunghi, siamo sulle 3 ore. Ecco, vedi, per cui uno deve anche portarsi le patatine da casa. Dire. Sì, assolutamente. Vabbè, per ascoltare fino alla fine il concerto. Vabbè, allora, Vittorio, Maurizio, io direi, ci ascoltiamo Le Rue Soleil, allora, a questo punto, e poi torniamo a commentare e a parlare ancora insieme con Vittorio Descalzi per la leggenda New Trolls. Molto bene. Svolta. Blu Radio Veneto SRL, titolare dell'impresa di radiodiffusione sonora in ambito locale, denominata Blu Radio Veneto, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per le elezioni che avranno luogo nei giorni 28 e 29 marzo 2010. Per informazioni, rivolgersi alla concessionaria di competenza territoriale. Per la provincia di Padova, Nord-Est Pubblicità SRL, 049 87 52 765. Per la provincia di Venezia, CID SRL, 041 95 99 99. Per la provincia di Treviso, Publivita SNC 0422 576 904. www.bluradioveneto.it, sezione pubblicità. Allora, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora in diretta su Blu Radio Veneto all'interno di Blu Radio Sera, dove stiamo piacevolmente conversando con Vittorio Descalzi per presentare la leggenda New Trolls e dare visibilità anche a quello che è il concerto di venerdì prossimo, venerdì 26 febbraio alle ore 21 al Teatro Comunale di Vicenza. Ci sarà la leggenda New Trolls con la riunione dei storici personaggi che avevano formato a quel tempo i New Trolls, quindi D'Adamo, Belleno, Di Palo e Descalzi, e proprio con Vittorio Descalzi che siamo in collegamento telefonico. Allora, ecco, buonasera ancora a te Vittorio, come sta andando la cena? Ah, benissimo, 27 anni che non suonavamo insieme, cioè, hai capito? Eh sì, sono devono essere grandi emozioni queste, Vittorio, soprattutto perché uno non ci crede mai che poi si può anche, diciamo, ritornare a fare della musica insieme. Magari ci si allontana per delle divergenze musicali, ma poi eccoci qua, ancora a parlare di questo grande evento che in molti fortunati potranno venire ad assistere appunto il 26 febbraio al Teatro Comunale di Vicenza. Vittorio, abbiamo appena ascoltato questo brano che sarà proprio all'interno del concerto, quindi abbiamo ascoltato Le Roi Soleil, ma vedo che all'interno della scaletta c'è anche Faccia di Cane, quel famoso pezzo che nel 95 aveva vinto anche il premio della critica a Sanremo. È vero. E tu sai chi ha scritto il testo di Faccia di Cane? Era firmato da De André, mi pare, però c'è una cosa firmato da De André, firmato da Ferri. Sì. E però sotto in realtà c'era Fabrizio De André, ecco. Che lui aveva detto: non voglio venire a San, cioè non voglio apparire. Sì, ecco. Ho capito. Però ha preso il premio della critica. E quindi ha preso il premio della critica e però subito qualcuno che ha voluto guardare meglio dentro la canzone e ha scoperto che c'era anche Faber. Certo, però come vedi, se uno è forte come Faber, lo è sempre stato, sì, si prende il premio della critica anche senza sapere che l'autore vero era lui. Certo. Allora, voi da buoni genovesi avete sempre guardato con un occhiolino alla musica francese, quella che avete proprio giusto vicino alla frontiera. E c'è anche un brano che proprio cantate anche venerdì prossimo, e che è di Gilbert Bécaud, un grande protagonista della musica francese dei tempi in cui voi siete nati praticamente. Certo, il pezzo si chiama Let It Be Me in inglese, anche se l'ha scritto in francese, e devi sapere che ci sono delle versioni storiche di questa canzone. Lo stesso Elvis Presley ha cantato questa canzone. Sì, ed è una canzone in cui ci si può cimentare, però bisogna avere, come si può dire, quelle robe quadrate per farlo. abbiamo capito, abbiamo inteso, ma voi... Ecco quella roba lì. Musicisti con la M maiuscola, insomma, giusto. E soprattutto sentendo voi la musica in maniera veramente ottima, queste interpretazioni, diciamo, vi vengono piuttosto bene. Vittorio, come non pensi di un ritorno del Progressive, il rovescio della medaglia che si rifà e la Reale Accademia di Musica che riprende a suonare, secondo te? Ma io sono felice perché il prog, io sono un fautore del rock progressive, io dico sempre che il rock progressive è il rock tradizionale liberato dalle sue catene, hai capito? Ho capito. Cioè si riesce a spaziare molto di più, e sono felice quando poi di questi ritorni, in un momento in cui tutti si separano, la gente che si rimette insieme, ha tutta la mia stima. Decisamente. E questo grandissimo successo che avete sempre avuto in Giappone, come si spiega? Il concerto grosso ha lasciato un segno molto forte, perché la musica barocca all'estero, in Oriente in particolare, è considerata musica italiana. Sì. Noi veniamo dall'Italia, facciamo il rock invece, che è internazionale, ma lo mischiamo al barocco italiano. Per cui diventano matti per questa musica. Tra le altre cose, Vittorio, a proposito di questa di questo spostamento verso Oriente, appunto, di la leggenda New Trolls, c'è stato anche qualcuno che ha pensato bene di scrivere un libro riguardo questo? Ah, sì, si chiama Dal pesto al sushi. Ecco, vedi. Che... devo dire che non è male, io sto proponendo una ricetta di sushi al pesto che non è male. Ah, fantastico, quindi sì, non si finisce mai, poi magari col prossimo disco uscirà anche un libretto di ricette, voglio dire. Ma perché no? Ormai ci sono un allora, io sono nato in un ristorante, sì. Mio padre aveva diversi ristoranti, per cui quando si parla di cucina io la metto sempre insieme alla musica. Benissimo, perfetto, quindi un bel brano dedicato alle trenette al pesto. Mica male. Tagliesca, io non l'ho vista adesso, però penso sicuramente fai la notte su Montecaldo, che è la tua rielaborazione. È uno dei bis che facciamo noi. E che sì, è una tua rielaborazione, assolutamente una tua rielaborazione. È fatta assolutamente. Beh, Mussorgsky è sempre stato uno dei miei autori preferiti. Certo, e poi dobbiamo sottolineare una cosa, forse molti non lo sanno, sei stato il primo gruppo che ha fatto un disco live, questo dobbiamo sottolineare. Vabbè, anche questo, non è male. Sono tutti che bisogna dirlo, la gente lo deve sapere. Perché? Un vecchio poi... uno in studio, uno, Sergio Fornello, uno in studio, uno dal vivo, assolutamente dal vivo, molto coraggioso secondo me per l'epoca, non so se sei d'accordo Vittorio. Beh sì, in effetti abbiamo avuto anche un po' di problemi all'inizio, perché dicevano non vedi, non vende come gli altri, invece poi negli anni ha avuto un successo notevole anche quello, però l'impatto iniziale, fare l'album doppio in inglese così, o un live tutto dal vivo, insomma è stato un atto di coraggio, certamente, veramente. Certamente. Va bene, allora Vittorio, sicuramente saremo tra le persone che verranno a vedervi all'interno di questo concerto che appunto terrete al Teatro Comunale di Vicenza in questo venerdì 26 febbraio dalle ore 21. E che dire Vittorio, per concludere io avevo preso una cosa molto recente che riguarda il 2007, con quel concerto grosso New Trolls The Seven Season, che vede anche una traccia che io amo in particolare, a parte che tutte, come ti dicevo fuori dalla diretta, le avevo imparate anche a memoria quasi a forza di ascoltarle, però c'è una bella canzone che si intitola Dance with the Rain. Ah, bella, è la mia preferita dell'album. Ecco, e che mi raccomando, siccome non l'ho vista in scaletta mi stavo anche preoccupando. Guarda, anche di questo sto parlando con i miei soci, perché ti spiego, loro sono arrivati che questa cosa era già fatta, l'abbiamo fatta io e Nicola, l'abbiamo scritta, no? Certo, per cui certo. Adamo e Belleno devono imparare il brano, è obbligatorio. E poi anche la traduzione in italiano, So che ci sei, veramente fa tremare. La mia signora, che non piace il progressive, quando ho ascoltato questa canzone ha detto: ma hai cambiato disco? In realtà, in realtà era sempre il tuo che stava andando, per cui... questo è un segnale positivo. Assolutamente sì, assolutamente sì. E comunque, per concludere, non mancheranno neanche le canzoni che vi hanno regalato un buon successo, come Quella carezza della sera e anche Aldebaran. Ma certo, ma miniera, ma davanti agli occhi miei. Purtroppo dovete portarvi le patatine veramente, cioè portarvi la bisaccia con le vettovaglie, perché se dovessimo farli tutti suoniamo veramente 5-6 ore, anche di più. Ci prepariamo con lo zainetto tattico militare allora a questo punto. Va bene, allora Vittorio, è stato davvero un piacere poter parlare con te per la presentazione di questo concerto e della musica che contraddistingue la leggenda New Trolls, e diamo ancora un augurio di ben ritrovati a te Vittorio, a Nico, poi ancora ad Adamo e anche a Belleno. Va bene, ti ringrazio. Benissimo, allora salutandoci, allora, noi ascoltiamo la canzone, io direi proprio di inserire, Maurizio sei d'accordo, inseriamo Dance with the Rain, perché è una canzone davvero che fa emozionare. Bene, molte ancora grazie. Ancora grazie Vittorio. Ci vediamo venerdì. Ciao a venerdì. Ciao. Radio Veneto. with angels at night. Have you ever burnt your wings in the flame? Are there planets or the stars on your flight? Is awareness just a word? Is compassion just a thing? Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora con Blu Radio Sera. Qualcosa forse non è andato per il meglio, però vabbè, siamo ancora qui a parlare in fase conclusiva di quello che è stata l'intervista a Vittorio Descalzi. Abbiamo ancora con noi in collegamento Maurizio Calzavara. È stato un grandissimo piacere, caro Flavio, a parlare con una leggenda in tutti i sensi della musica italiana, della musica rock italiana, veramente straordinario. Vittorio è un musicista straordinario e il gruppo Neutrons è sempre stato un gruppo molto molto avanti, anche come certe costruzioni sonore. Dopo chiaramente anche loro, come giustamente hai detto, hanno un po' guardato il commerciale, tra virgolette, però d'altronde fa parte dell'insieme delle cose. D'altronde è anche proprio in quanto loro protagonisti come musica alternativa anche a provocare i parecchi litigi che c'erano all'interno certamente della formazione, perché ricordiamo adesso si sono riuniti, ma nell'arco di questi 40 anni si sono lasciati un sacco di volte. Sì, sì, sono tornati. Poi c'era NT Atomic, sì, esattamente. Poi gli Ibis ancora di Paolo, poi ancora c'erano altri gruppetti che si erano formati proprio su questa, anche Magma mi sembrava. Sì, Magma, esattamente. Ma dobbiamo dire che il marchio Neutro è un marchio importante, c'è poco da fare, è fondamentale. Chiaramente può succedere, queste cose possono succedere. E se vogliamo c'era anche Nuova Idea che faceva anche parte. Nuova Idea è un grande gruppo, anche quello progressive, sì. Un gruppo molto interessante. Dove c'era George Uzai, che è stato, tra altre cose, uno dei gregari, diciamo, dei New Trolls, tanto per ricordarlo, era quello biondo col baffo. No? Ecco, biondo col baffo. Bene, invece vedremo venerdì sera se ti rimetterai anche dalla tua... Beh, domani devo rimettermi per forza perché ci sono i Meritosh da Verona che vengono a suonare, e giovedì abbiamo le Oroferne da Ancona, gli Oroferni, Ferne che è un gruppo di Ancona, quindi sicuramente devo rimettermi in salute per venire a partecipare, a gestire come sempre il Rock Wave dal vivo. Sì, è in pianificazione anche un servizio di Flebo che ti viene direttamente a casa per permetterti poi di essere qui. Naturalmente ti mettiamo con una bella brandina, ecco, e con un'infermiera che ti misura costantemente la febbre e la pressione. Vabbè, allora parlavamo di questi Mary Posh. Mary Posh, un gruppo di Verona, non è molto conosciuto, ma è conosciuta la front woman, cioè la ragazza che canta. Che e sarebbe la famosa Veronica Marchi. Esattamente, Veronica Marchi, che è venuta più di una volta da noi, ha fatto 3 album solisti molto interessanti, e con questo gruppo di Verona varia, cioè parte, non è che costruisce un vero e proprio cantautorato, ma allarga gli orizzonti tra musica pop, tra la musica di progressive, non progressive, psichedelica, e anche un momento di musica strumentale con le tastiere. Cioè, è una roba interessante, decisamente. E domani ne approfittano per presentare il loro ultimo EP, che ha solamente 3 pezzi molto significativi. Poi chiaramente non presenteranno solo quei 3 pezzi là, presenteranno altre cose, ma molto significativo perché sono 3 momenti diversi di una struttura musicale. Bene, quindi sempre validi motivi per tenersi in ascolto con Blu Radio Veneto, perché all'interno di Rock Wave anche domani sera potremo assaggiare dell'ottima musica rock nelle varie versioni. Questa volta tocca a Mary Posh, e dalle ore 22, eccezionalmente iniziate alle 22, Maurizio. Sì, a mercoledì, sì. Se mi consenti, Flavio, certo. Ti devo dire che giovedì abbiamo un doppio appuntamento. Il primo appuntamento alle 21:15 con Sandro, parleremo di Sanremo con Gigi Vesigna. Mitico direttore per 21 anni di TV Sorrisi e Canzoni, ha partecipato a 50 edizioni di Sanremo, ha fatto un libro nuovo, Vox Populi. Ieri sera abbiamo parlato con Eddie Anselmi, l'enciclopedia vivente sanremese. Sì. Giovedì parleremo con Gigi Vesigna e parleremo anche con lui degli risultati di Sanremo, come li hai visti, come li ha sentiti lui, che giudizio può dare. Ok, ma visto che ci siamo, Maurizio, io non ti ho seguito completamente nelle tue critiche di ieri sera, ma secondo te il Festival di Sanremo c'è qualcosa che non va? Sì, ci sono tante cose che non vanno. Ieri sera Mario Castelnuovo aveva detto una cosa giusta: si bada poco alla musica e molto di più al